Tempo di sport. A tempo di sport alla vigilia di Italia-Spagna, esordio europeo per l'Italia di Cesare Prandelli, giornata importante però interessante non solo per il calcio, parleremo naturalmente anche di basket perché cominciano le finali fra Montepaschi Siena e Armani Milano, poi il tennis con la sconfitta ma una Sara Errani che esce a testa alta dal Roland Garros e poi naturalmente anche la Formula 1 con il Gran Premio del Canada, ma abbiamo detto del calcio, naturalmente gli occhi sono puntati sull'Italia che esordisce domani con la Spagna, partita chiaramente molto difficile, e lo chiedo a Gigi Garanzini che è con noi in linea. Buongiorno Gigi. Buongiorno Claudio. Beh, diciamo, non si poteva aspettare esordio peggiore, oppure la Spagna forse affrontarla subito all'inizio va bene? Non si poteva aspettare esordio migliore, è un po' paradossale, no? Ma forse solo i paradossi ormai possono servire, però è un paradosso fino a un certo punto, cioè in queste condizioni abbastanza scadenti, no? Di squadra, di gioco, di fiducia in se stessi, di ambiente, di habitat sullo sfondo, credo che se tu avessi dovuto, come si dice nel gergo di oggi, fare la partita, e cioè trovarti davanti l'Irlanda piuttosto che la Croazia, ok, avresti avuto problemi seri. Perché forse non hai la personalità oggi per prendere il mazzo in mano, così invece sai bene che il mazzo lo pigliano gli altri perché sanno solo giocare così, oltretutto gli spagnoli, no? E quindi non loro possono soltanto prendere il pallino in mano dal primo minuto e gestirselo loro, quindi tu devi star lì ad aspettarli ed è il gioco forse più congeniale all'Italia, sapendo una cosa in più Claudio, che è questa: che se per caso la partita d'esordio contro la squadra più forte del girone la perdi, al massimo può andare come 4 anni fa, che perdi la prima con l'Olanda e là ne presero 3 addirittura, e poi ti qualifichi lo stesso là con la Francia e la Romania e qui sperabilmente con Croazia e Irlanda. Assolutamente. In redazione Giorgio De Luca, in regia Paolo Corleoni, vi ricordo il numero verde 800 24 00 24, gli sms 349 238 6666 e poi l'email a tempo di sport @radio24.it, siamo anche su Facebook a tempo di sport Radio 24, su Twitter @atempodisport. Gigi, ha appena parlato Cesare Prandelli, dice il pessimismo ci accompagna ma non ci dà fastidio, anzi ci dà stimoli. Abbiamo voglia di sovvertirlo e ha parlato anche di formazione, quindi sentiamo Cesare. Per quanto riguarda la formazione dei titolari, abbiamo parlato proprio in questi giorni, tutti si devono sentire titolari perché la necessità mia è quella di avere giocatori pronti ma soprattutto disponibili a qualsiasi tipo di situazione. Faremo sempre 3 cambi, vogliamo avere una squadra molto ma molto dinamica, molto aggressiva, quindi dobbiamo spendere tutto quello che abbiamo e poi dipenderà da me cambiare i giocatori. Dicevamo Gigi, una formazione che sarà un po' inedita, anche se come abbiamo sentito da Prandelli ci saranno molti cambi all'inizio. Sì, ma io credo che io non ho sentito molto bene l'audio perché qua da Trieste dove sono oggi Il ponte con la Polonia funziona fino a un certo punto. Ma sostanzialmente Gigi ha detto formazione poi potrà variare comunque sempre, voglio fare sempre 3 cambi per dare comunque cambi, ritmo. Ma immagino che lui voglia puntare su questa difesa 3, che poi in realtà sì. È un vecchio trucco, no? Cioè si legge 3, cioè si scrive 3 e si legge 5, perché poi vuol dire avere 3 difensori centrali, ma non è che non hai 2 difensori esterni. E quindi ci sono anche quelli. Se giochi a 3 quando attacca gli altri, giochi a 5 quando attacchi tu, insomma. È un rimedio, un tentativo, perché evidentemente quelle combinazioni volanti dei russi una settimana fa in amichevole hanno lasciato tracce evidenti, non solo per i gol presi che poi alla fine sono stati anche un po' regalati da errori individuali, Maggio e company, ma dal fatto che loro andavano dentro con una facilità irrisoria e quindi lui ha pensato a questa figura di libero moderno oppure centromediano metodista arretrato, insomma lo chiamiamo come vogliamo, che sarebbe De Rossi, che va lì a fare da tampone in più avendo grande senso tattico e scelta di tempo quando gli altri attaccano ed è il primo a uscire, immagino io, quando invece poi arrivi alla fase di contrattacco. Allora, hai parlato di De Rossi, ascoltiamolo su cosa ha detto sul fatto che giocherà appunto in difesa. 99,9% giocherò lì la prima partita, dire centrale di difesa forse un po' non è proprio esatto, ma farò insomma diciamo da collante tra difesa e centrocampo, e credo che sia giusto fare così, adattarsi e accettare ogni cosa. Si parla sempre di gruppo, di comportamenti o di leader, insomma io credo che si abusi un pochino di queste parole, bisogna dimostrarlo con i fatti e stare a disposizione anche quando si gioca in ruoli che non sono quelli abituali, se così vogliamo. Eh sì, non sono ruoli abituali. Zeman ha detto: De Rossi lo vedo solo a centrocampo. Vi ricordo il numero verde 800 24 00 24 per chi volesse chiamare a Tempo di Sport. Claudio Arrigoni per Radio 24 al microfono, insieme a Gigi Garanzini. Gli sms 349 238 6666. Sì, Gigi, questa è una scelta che ha fatto discutere, De Rossi spostato indietro proprio pochi giorni prima dell'esordio europeo. Sì, ma un rimedio dell'ultima ora, sai, il fatto che Zeman dica, il fatto che Zeman critichi la mossa già è un segnale positivo, perché con tutto rispetto per la fase offensiva di Zeman, la sua fase difensiva credo sia una delle più perforanti. Lascia un po' a desiderare, sì. No, quindi questo già potrebbe essere un buon viatico, direi, per questa formula. Prandelli ha provato a impostare la nazionale per 2 anni in maniera diversa, poi a un certo punto ha avuto qualche problema sui centrali, mancando di Barzagli, che era quello di cui si fidava di più, non se l'è sentita di continuare a quella maniera. Bonucci oggettivamente non attraversa un gran momento, il valore individuale dei difensori presi uno per uno non è eccelso, e ha tentato questo correttivo dell'ultima ora, vediamo se funziona o no. Ha parlato anche Buffon proprio pochi minuti fa, e ha chiesto il supporto dei tifosi in un momento così delicato per il calcio italiano. Ha detto: beh, tutte queste polemiche possono servirci, possono essere utili anche per spronarci. Sentiamolo. Tifosi dell'Italia e degli italiani, la stragrande maggioranza sarà sempre comunque dalla nostra parte, perché è giusto che sia così, perché alla fine, volenti o nolenti, rappresentiamo un paese intero, un paese che magari in questo momento, calcisticamente parlando, sta attraversando un periodo non facile, però abbiamo anche una grande opportunità noi per poterli rendere partecipi e poterli rendere orgogliosi di questa nazionale e dei ragazzi che indossano la maglia azzurra. È un po' un refrain questo, ci sono le polemiche, quindi ci carichiamo, Gigi. Sai, io una mia idea abbastanza precisa, che è questa: non è molto giornalistica, perché giornalisticamente bisogna che i giocatori parlino il più possibile. Io dico che Buffon più parla e meno parla e meglio è, e credo che potrebbe essere una sintesi, no, degli ultimi tempi, e forse non soltanto degli ultimi. Io trovo che mentre tra i pali è perfetto, fuori dai pali lo sia meno, davanti ai microfoni lo sia meno. Sì, sicuramente, poi soprattutto in questo periodo forse anche il fatto di scegliere un capitano che è un po' chiacchierato, ma abbiamo vissuto questi momenti anche durante mondiali, sì, che certo, poi sono andati benissimo. Certo, va bene. È grave, è lui il capitano di lungo corso, è giusto che lo sia, è altrettanto legittima difesa, insomma, prendere magari non per oro colato esattamente tutto quello che ci viene propinato, insomma. Grazie Gigi Garanzini, ci sentiamo domani naturalmente, pochi minuti prima dell'esordio degli azzurri. Certo. Traffico adesso, e poi una notizia non bellissima che riguarda invece Cristiano Bodo, giocatore del Lecce. 800 24 00 24 per chi volesse collegarsi con noi, 349 238 6666, Claudio Arrigoni per Radio 24 a parlare di sport, e in questo caso con una notizia non bellissima che è legata però allo sport. È un dramma per Cristiano Bodo, il giocatore del Lecce che è stato rapito in Nigeria. si attende una richiesta di riscatto che pare sia di 150.000 euro. Il centrocampista che è in prestito all'Udinese nelle mani di un gruppo di criminali, la notizia è stata data da fonti governative, si stava recando in chiesa. Speriamo che tutto naturalmente si risolva per il meglio. Prima di tornare a parlare di calcio, a parlare di europeo, queste le parole di Sara Errani dedicate ai suoi genitori dopo la sconfitta con la Sharapova, ma soprattutto aver raggiunto la finale del Roland Garros. Volevo dire che questo premio è vostro perché mi avete fatto essere la persona che sono e mi avete fatto essere qua oggi. Eh sì, è stata davvero una grande giornata anche nella sconfitta per Sara Errani, che comunque ha vinto il doppio insieme a Roberta Vinci, rientrerà fra le prime 10 del mondo molto probabilmente, quindi comunque una bella giornata per il tennis italiano. Torneremo a parlare di lei più tardi, ma adesso siamo in collegamento con Filippo Maria Ricci, corrispondente a Madrid per la Gazzetta dello Sport, che in questi giorni segue la nazionale spagnola. Buongiorno Filippo. Buon pomeriggio qua dall'autobus che accompagna i giornalisti spagnoli allo stadio. Se sentite rumore o cori o, Ma sono i benvenuti questo... in questo caso, sono i benvenuti naturalmente. Sì, insomma, anche vabbè, no, c'è una grande atmosfera divertente, ecco. ci hanno già preso in giro mettendo su Raffaella Carrà e Umberto Tozzi. Andiamo bene. L'unico italiano, ormai mi hanno preso qui a ben volere, sono l'infiltrato ufficiale. E sono aggiornati sulla musica italiana naturalmente. Sì, no, io li prendevo in giro perché stanno mettendo la musica spagnola orrenda, però loro mi hanno risposto con un colpo basso. Mi chiamo Umberto Tozzi, che io ho trasformato in un nino a Cassano. Ecco. Come puoi sentire, questo è il clima che si respira. Beh, vabbè, questo è un buon clima. Domani sera però piangeranno. Beh, questo lo speriamo. Diceva Gigi Garanzini poco fa, non si poteva sperare in un esordio migliore. Sì, io sono d'accordo, meglio entrare col piede giusto, a parte ricordandosi anche che comunque la Spagna ha perso la prima partita al Mondiale, no, in 2 anni fa contro la Svizzera, salvo poi vincere tutte le altre, e per noi va bene così. Io penso che sia un buon test per misurare le nostre qualità ed eventualmente scoprire qualcuno dei possibili difetti che hanno loro. Ieri si è giocata. Non si vedono, sono pochi, però secondo me ci sono. Ieri si è giocata Polonia-Grecia 1-1, Russia-Repubblica Ceca 4-1. Stasera si entra un po' nel vivo del torneo con Olanda-Danimarca e Germania-Portogallo. Però dicevi ci sono dei difetti? Sì, ci sono in una squadra che ha vinto l'Europeo, che ha vinto il Mondiale, che è favorita per vincere per la seconda volta l'Europeo? Sicuramente nessuno ha mai fatto questo incredibile triplete, i difetti sono legati all'assenza di David Villa, che in Sudafrica ha fatto 5 degli 8 gol con cui la Spagna ha vinto il Mondiale, e secondo me la difesa non è impermeabile, hanno 2 terzini normali come Arbeloa e Jordi Alba e una coppia centrale che sì, loro raccontano a tutti che si vogliono molto bene, perché però i colleghi spagnoli non ne sono poi tanto convinti. Però mi sembra che siano nel clima giusto i colleghi spagnoli. Sì, quello sì, loro si divertono sempre, questo sì, conta che veniamo adesso qua, cioè, l'albergo ci ha organizzato una forchetta sulla spiaggia che si finita malissimo perché studiava, però adesso è chiaro che sanno anche che sono in diretta radiofonica, quindi questo aumentato il volume a posto. Ti faccio sentire uno dei punti di forza della Spagna, cosa ha detto Xavi Hernández. Italia es una histórica, pero Croacia e Irlanda son rivales físicos que nos van a apretar mucho, nos van a dar el balón, pero se van a cerrar atrás, juego directo, va a ser complicado y el primer partido es clave y además contra Italia, o sea, un grupo bastante duro. Quindi è complicato, è difficile cominciare proprio con l'Italia, ci credi Filippo? Sì, beh, io ho avuto la fortuna di parlare prima con Fabregas e poi con Xabi Alonso, è questo, cioè, sono purtroppo hanno imparato ad essere umili, probabilmente un po' meno, ma i giocatori sono molto umili, insomma, ci temono abbastanza, non si fidano assolutamente, hanno molta paura di questa Italia ferita. Pronto? Ecco, proprio riguardo a Xavi, ha parlato anche dell'Italia, diceva non è la squadra che faceva Catenaccio. Sí, pero Italia ha cambiado mucho el sistema. Es un equipo que quiere más el balón, que puebla mucho el medio campo, que juegan en rombo, con Pirlo como hombre más destacado en esa zona y luego con dos puntas, ¿no? Sean Balotelli, sea Cassano. Pero es un equipo que no se cierra tan atrás, ya no es el Catenaccio de años anteriores, sino que intentan jugar más al fútbol o intentan ser más protagonistas, ¿no? Y de alguna manera tienen futbolistas para eso. Pirlo, Marquisio, De Rossi, los dos puntas, son futbolistas a tener en cuenta, de mucho nivel, de mucha calidad, y yo pienso que se va a ver un buen espectáculo, ¿no? Se va a ver esos partidos España-Italia, donde Italia se cierra atrás, España tiene el balón constantemente, sino que pienso que nos lo van a intentar quitar. Era uno spagnolo quasi italiano, Filippo, però ecco, c'è davvero tutta questa qualità nell'Italia, lo credono davvero in Spagna? Sì, guarda, i giocatori ci rispettano, su questo non ci sono dubbi. Infatti hai visto, no? Ha detto no, non è l'Italia del Catenaccio, lo dice Xavi, perché in realtà in Spagna continuano a pensarlo. Santiago, c'era un bel titolo su Marca che diceva no, l'Italia recupera il Catenaccio, continuano a vederci così degli antiquati, delle specie di cavernicoli del calcio, però no, i giocatori la vedono diversamente, te lo posso dire perché non sono. Questi giorni ho avuto modo di parlare con loro e hanno un'altra immagine del nostro calcio, fortunatamente. Filippo, prima di farti una piccola sorpresa, mi dici chi giocherà davanti, Torres? Io dico Torres, però non tutti sono convinti, cioè, il dibattito è aperto. Torres Negredo, diciamo Torres 40 o 45, Negredo 35, il resto Llorente. Io sto con il Nino, e adesso, parlando di Nino, tu ricordi che hai fatto una cosa molto bella, perché hai fatto avvicinare un ragazzino che è nato completamente senza una gamba e che gioca a calcio con le stampelle, si chiama Francesco Messori, e proprio grazie a Filippo Maria Ricci, Francesco Messori, detto Messi, proprio perché adora il giocatore del Barcellona, ha potuto incontrare Messi. Quindi volevo solo farti ringraziare da Francesco, che è qui con noi. Ciao Francesco. Ciao. Ecco, vuoi dire due parole a Filippo Maria Ricci? Ti vuoi solo raccontare il tuo incontro con Messi, com'è stato? Sì. Ok. Diglielo pure, guarda, ti sta ascoltando. Allora, praticamente mi sono svegliato il giorno del mio compleanno, cioè i miei mi hanno svegliato, mi hanno chiesto se era lo stesso, se per quel giorno lì non andavo a scuola, io ho detto di sì, e mi hanno detto andiamo a vedere un giocatore che inizia con la L. All'inizio non avevo capito bene, però poi ho intuito subito e siamo andati a Milano e l'abbiamo incontrato. Eri molto emozionato, Francesco, sì? Sì, molto, non riuscivo neanche a sedermi sulla poltrona che c'era di fianco a me. Va bene, allora Filippo, hai sentito, hai fatto una bella cosa. Beh, grazie, comunque i meriti non sono miei, sono tuoi in parte, e soprattutto quelli del Barcellona, che insomma ci ha trattato molto bene. Adesso stanno cantando Filippo che sei spagnolo, perché siamo messi così. Ti lascio ai cori. Grazie Filippo, poi ci sentiremo naturalmente nei prossimi giorni. Va bene. Ciao. Francesco Messori, che ha organizzato una maniera diversa anche per vedere Italia-Spagna domani, vero Francesco? Farete un torneo con giocatori come te, che giocano con le stampelle insieme a giocatori normodotati con le due gambe. Che cosa fate domani? E fra l'altro lo fate in un posto che è anche significativo per un altro motivo, perché lo fate a Correggio, proprio nelle vicinanze della zona del terremoto, una maniera per dire che la vita comunque va avanti, vero Francesco? Sì, allora domani abbiamo organizzato insieme al Mandrio, la mia squadra, un torneo, il CSI anche, un torneo a calcio integrato, che si chiama Un Calcio a Modo Mio, dove ci sono 6 squadre e per ognuna c'è un amputato, che di quelli che ho contattato su Facebook, che giocherà o con la protesi o con le stampelle. E poi dopo pranzo faremo i calci di rigore battuti da noi, dagli amputati, e dopo le premiazioni mentre ceneremo guarderemo Spagna-Italia. sarà sicuramente una, un bel pomeriggio che si conclerà con Italia-Spagna. In bocca al lupo Francesco, grazie per essere stato con noi. Vi ricordo dunque le partite che si giocheranno nei prossimi giorni per l'Europeo. Abbiamo detto stasera si comincia a entrare un po' nel vivo con Olanda-Danimarca e Germania-Portogallo alle 20:45, Olanda-Danimarca che si aprirà fra poco alle 18, e poi lunedì Francia-Inghilterra alle 18 e Ucraina-Svezia alle 20:45. Ieri Polonia-Grecia e Russia-Repubblica Ceca non è che abbiano detto moltissimo, hanno però messo in risalto una grande Russia che potrebbe essere un po' la sorpresa di questo europeo. Vi ricordo i numeri 800 2400 24 per chi volesse mettersi in contatto con noi, gli sms 349 238 6666. Siamo a tempo di sport, alla vigilia di Italia-Spagna, partita fondamentale per l'Italia che entra in questo europeo un po' in in maniera un po' strana, perché in un momento dove vi sono moltissime polemiche nel calcio italiano con alcuni giocatori, in particolare abbiamo sentito prima proprio Buffon, che sono al centro di queste polemiche, non sarà un cammino facile per l'Italia. L'esordio con la Spagna, che è campione del mondo e campione europeo in carica, e si avvia, secondo i pronostici, a forse poter anche fare una doppietta storica per quello che riguarda gli europei. È la favorita numero uno naturalmente per quanto riguarda questo europeo, anche se io credo che sia un europeo abbastanza equilibrato. Lo potremo scoprire già stasera. C'è un Olanda con Van Persie, fra l'altro il giocatore più seguito dalla Juventus, e poi una Germania che rimane fra le squadre più importanti del calcio europeo, un Portogallo con Cristiano Ronaldo che vuole essere la stella di questo europeo. Ci fermiamo allora per pochi minuti e poi torniamo con a parlare di sport. Parleremo ancora di calcio, ma parleremo in particolare di tennis e di basket. 800 24 00 24 349 238 6666 per i vostri sms. Claudio Regoni per Radio 24 a parlare di sport, calcio in particolare, ma non solo, in questo sabato pomeriggio. 800 24 00 24 per chi vuole chiamare, 349 238 6666 gli sms, ma siamo anche su Facebook a tempo di sport Radio 24, su Twitter a tempo di sport. Un ascoltatore, Massimiliano da Milano. Buongiorno. Senta, buongiorno. Io volevo, diciamo, una battuta su De Rossi, nel senso che poi, vabbè, con la Spagna si può anche prendere tre gol nei primi cinque minuti, poi quindi si dirà che è sbagliato, però secondo me come scelta è giusta, anche magari un po' tardiva, nel senso che ha quattro in Italia, con la difesa a quattro, praticamente delle squadre importanti, c'è solo il Milan, e non con, con giocatori, diciamo, probabilmente convocabili in nazionale, quindi diciamo non credo che sia giusto, perché aumenta il livello qualitativo. I terzini, per esempio Maggio, sono abituati a giocare più avanti. E poi un'altra cosa però sulla nazionale, perché sento anche molti amici che dicono che non ti faranno per la nazionale. Io devo dire che addirittura ma un po' sì, beh, insomma, diciamo, è un po' nauseante quello che viene fuori, però secondo me c'è anche da dire che rispecchia, questa nazionale rispecchia molto il paese, quindi è anche difficile, diciamo, dire non si tifa per l'Italia, perché poi rappresenta, diciamo, anche quel misto di un po' di furbizia, un po' di ipocrisia, penso a Buffon, penso al presidente della FIGC, e quindi magari non disonestà, però rappresenta bene il paese, ecco. Ma partiamo da quest'ultima considerazione. Lo sport ci aveva abituati a essere e a mostrare un po' la parte migliore del paese. Forse in passato e forse negli ultimi tempi questo è cambiato un po'. Io spero sempre che i difetti nazionali non si rispecchino poi in quello che è lo sport. Sarebbe bello, ma qui stiamo naturalmente siamo nell'iperuranio, ma sarebbe bellissimo se anche i giocatori si comportassero, almeno quelli che giocano in nazionale, onorassero questa maglia in maniera diversa. E non dico di arrivare come gli All Blacks. Gli All Blacks, i giocatori di rugby nazionale, di rugby neozelandese, vengono scelti con una formula molto precisa. Si dice vogliamo buoni giocatori buoni, cioè giocatori che siano di alto livello tecnicamente, ma che siano anche grandi, brave persone. Ecco, sarebbe bello se questo accadesse naturalmente anche nel nostro calcio. Per quanto riguarda i rossi, io sono abbastanza d'accordo con lei. È stata una scelta obbligata, l'abbiamo detto all'inizio con Gigi Garanzini, però io devo dire è una scelta che alla fine è probabilmente la migliore, quella più spendibile in questo momento. Non è detto poi che Prandelli non torni indietro, non si ritorni con una difesa a 4 come ha sempre giocato. Quindi io credo che Prandelli sia uno abbastanza duttile, l'ho detto anche all'inizio, io voglio cambiare un po' anche la nazionale, la voglio cambiare in corsa, farò sempre tre cambi. Credo che la duttilità sia una cosa importante in un torneo come questo. Abbiamo parlato di calcio, va bene, però ci sono altri avvenimenti importanti. Caro Franco Casalini, finora abbiamo parlato di un avvenimento minore, mi sembra, giusto? non farmi parlare, ciao Claudio, ciao a tutti. Buongiorno Franco Casalini, grande coach dell'Olimpia Milano, grande commentatore prima di Sky, ora delle partite dell'Olimpia, con l'Olimpia ha vinto anche una Coppa dei Campioni, chi meglio di lui per introdurre questa finale che ancora una volta mette di fronte Milano e Siena del basket, che comincia questa sera. Franco, una finale che è meno segnata rispetto agli altri anni. Questo è già un gran passo avanti, perché siamo abituati negli ultimi anni allo stradominio di Siena, non che questo non possa continuare, ma certamente con maggior fatica e con maggior incertezza, che è quello che conta di più per noi che lo seguiamo dall'esterno, diciamo, e quindi ci apprestiamo a seguire una serie al meglio di 7 con qualche incertezza in più rispetto agli anni scorsi. Ecco, diciamo, magari qualche si chiude, ma con qualche partita in più, ecco, rispetto... mettiamola così. Comunque sia, partita per partita, non si può dare per scontato la vittoria di una o dell'altra. Assolutamente nulla. Come era gli anni scorsi. Senti Pianigiani cosa ha detto e dimmi se sei d'accordo. È ovvio che ci sia... un'emozione particolare da parte di tutti, perché è una finale, perché le finali non sono mai scontate, perché per quanto tu ne possa giocare molte, avere la fortuna di essere al vertice, poi nel corso di una vita, di una carriera, sono sempre un numero limitato, e quindi è giusto e normale che sia così. Secondo me questa lo è anche in maniera particolare, perché rappresenta la fine anche di un secondo ciclo straordinario, o se vogliamo la fine di un macro ciclo che poi proseguirà, ripartirà, perché Siena è un posto speciale per fare pallacanestro, ma è indubbio che un percorso vincente così importante, così lungo nello sport professionistico è già adesso di per sé irreplicabile. C'è la sensazione, la voglia da parte di tutti di voler provare ancora una volta a prendere un trofeo. Franco, io avrei titolato Pianigiani 2 punti, è finito il ciclo di Siena. Perlomeno questo ciclo, a quanto dice lui. Poi si vedrà quello che succederà, se con lui o no. Sembravano parole anche, non dico di commiato, ma di incertezza rispetto all'avvenire per quanto lo riguarda. Certamente ha detto la cosa giusta. Dopo la finale di Eurolega, che forse qualcuno ricorderà, Francesca e Olympiacos, una finale non è mai scontata. Devo dire che su 7 ci sono più certezze, diciamo così, però come dicevamo prima, meno di altri anni. Sì, sicuramente meno di altri anni. Milano si è riavvicinata anche il pubblico di Milano, queste finali al Forum sono già esaurite, almeno le due partite sicure che si giocheranno al Forum sono già esaurite, si può ripensare a un ciclo di Milano così come l'avevi vissuto ai tempi dell'Olimpia, ai tempi di Dan Peterson? Guarda, questa ovviamente è una domanda a cui è molto difficile rispondere, tanto bisogna, per cominciare un ciclo bisogna cominciare a vincere qualcosa, quindi vedremo alla fine di questa serie se potrà dirsi il primo passo di un ciclo. Certo è che i tempi sono molto diversi, sono molto più complicati da un certo punto di vista, anche perché allora, come è noto, l'impianto della squadra era quello per anni e anni. Se Milano saprà conservare un nucleo di squadra che peraltro è stato ben impostato con l'ingaggio di alcuni giovani molto interessanti, potrà anche sperare di farlo, però da questo a cominciare a ipotizzare un ciclo di anni è ancora molto presto, è ancora molto precoce. 800 24 00 24, il numero verde 349 238 6666. Franco, mi dai un motivo perché è favorita Siena e un motivo perché è favorita Milano? Ma guarda, Siena è favorita, primo perché ha più esperienza di queste finali, secondo perché ha comunque il vantaggio del campo. Quindi questi due motivi credo che siano già una buona sostanza per darla favorita. Milano deve controbattere questi due oggettivi vantaggi con una maggiore rabbia, un maggiore agonismo, forse una maggiore profondità di panchina che su 7 partite potrebbe anche incidere, anche se è un vantaggio oltre che teorico molto sottile, perché anche Siena è una gran panchina, e quindi credo che da questo punto di vista comunque i favori restano per Siena, perché comunque è la squadra da battere e lo è stata fin dall'inizio della stagione e lo ha dimostrato anche lungo tutta la stagione. Milano ha avuto anche dei momenti un po' di polemica nei confronti di Siena, in particolare Scariolo, anche il presidente Prodi. Sono polemiche che sono un po' artefatte secondo te, oppure sono polemiche che possono servire un po' a caricare anche la squadra? Ma guarda, se restano nell'ambito, come sono restate nell'ambito di una sana rivalità agonistica, sono certamente il messaggio che quest'anno Milano non va a fare la vittima sacrificale come è successo nelle ultime due finali. Quindi volere essere giocarsela alla pari è un grosso passo avanti. Credo che siano quindi funzionali al fatto di convincere la squadra e tutto l'ambiente che si va per giocare una finale, per vedere quello che succede e cedere le armi solo quando e se Siena si sarà rivelata superiore sul campo. Trovo che siano messaggi positivi per tutto l'ambiente, perché destano interesse, destano curiosità, destano passione, e quindi saranno naturalmente controbattute in maniera come da par loro efficace da Siena, che ha tutta l'esperienza e la capacità per farlo, e questo aumenta ancora di più, se è possibile, la passione attorno a questo evento, che dovrà essere l'evento finale di una stagione diversa dalle altre, quantomeno sul piano dell'incertezza, e questo è un bene per tutti. Montepaschi Siena, Armani Milano si gioca stasera alle 20:30, diretta su Rai Sport 2. Ti lascio Franco, però volevo da te una battuta anche su quello che succede dall'altra parte dell'oceano, e con LeBron James che ha portato all'ultima partita la serie fra Boston e Miami. LeBron James è uno che ha fatto vendere solo di scarpe alla Nike tante quante da incassare 90 milioni di dollari, ecco, quindi pensiamo e però era l'ultima chiamata per lui, dicevano, perché se LeBron non avesse fatto in modo che se la giocasse fino alla fine Miami con Boston per raggiungere Oklahoma City in finale, forse sarebbe stato il grande incompiuto. Beh, certamente parliamo di un grande giocatore che ha raccolto forse meno di quanto prometteva o comunque pensava di poter fare. Naturalmente stiamo parlando di uno sport di squadra, quindi è vero che le grandi individualità sono sono decisive, ma non così tanto come in altre discipline sportive. Per dire, Michael Jordan, se non avesse avuto i compagni di squadra che aveva, sarebbe stato comunque un fenomeno incompiuto. Invece con i suoi compagni di squadra è quel numero uno di sempre che tutti gli riconosciamo. LeBron James ha fatto già una lunga carriera nella NBA e quindi non potrà certamente uguagliare le vittorie di Michael Jordan, ma certamente sul piano strettamente individuale è quel fenomeno che tutti sappiamo. Vedremo quest'anno, sicuramente è un'occasione ghiotta, intanto vediamo se riuscirà, sì, perlomeno a giocarsela, ecco. Grazie a Franco Casalini, buona partita allora, Montepaschi, grazie. Armani, grazie a Franco Casalini. Ci fermiamo per il traffico, poi torniamo, abbiamo un ascoltatore e poi parliamo di Sara Errani. 800 24 00 24 349 238 6666 per i vostri sms. Claudio Regoni per Radio 24. Parliamo di sport, lo facciamo con Calogero dalla provincia di Palermo. Buongiorno. Pronto? Eccoci, salve. Calogero. Salve, sono Lillo di Petrolia Sottana, provincia di Palermo. Eccoci. Allora, solo due cose. A questi europei l'Italia arriva già con un'immagine negativa, questo sicuramente speriamo che sia per di stimolo per i nostri calciatori. E un'altra cosa, adesso basta con la corruzione al calcio, perché chi, per esempio per i bambini, e per chi sicuramente investe nel calcio, quindi devono pagare seriamente una volta per tutti, affinché sicuramente questo schifo finisca. Grazie, arrivederci. Grazie Lillo. Sì, l'immagine non è bella, abbiamo già provato tutto questo, almeno chi ha potuto farlo nel 2006, erano i mondiali, alla fine li abbiamo vinti e quella vittoria coprì un pochino tutti i problemi che ci furono a quell'epoca. Speriamo possa accadere anche in questo caso. Dicevamo Sara Errani e il tennis. Sara Errani ha perso, ma io credo che alla fine lo sport sia vincere e perdere, quindi la sconfitta non è una cosa così negativa. Abbiamo portato Sara Errani a potersi giocare la finale con la Sharapova, non è andata benissimo, ma abbiamo mostrato di esserci e di essere vivi ancora nel tennis. È la terza finale consecutiva a Roland Garros giocata da un'italiana, è vero, Barbara Rossi, che è la commentatrice tecnica per Eurosport, fra l'altro è stata la prima allenatrice di Francesca Schiavone, che aveva giocato le ultime due finali a Roland Garros. Hai visto questa finale, l'hai commentata per Eurosport, Barbara, è stata comunque una finale onorata da Sara. Ma assolutamente, insomma, abbiamo ricordato anche durante la telecronaca che altre giocatrici in passato non sono proprio riuscite ad esprimersi. Sara, anche in conferenza stampa, ha detto che la cosa che più le dispiace è essere partita molto male, perché dai blocchi è andata subito 3-0 sotto, ma bisogna dire che oggi aveva di fronte una Sharapova che ha giocato in una maniera fantastica, ha sancito la sua prima posizione mondiale, la sua vittoria in uno slam con una prestazione superlativa. Non ha proprio fatto giocare Sara, l'ha aggredita dalla prima all'ultima palla, e per Sara il problema principale è stato un servizio un po' troppo ballerino, un pochino troppo debole per una Sharapova così. Però davvero bisogna ringraziare Sara perché ci ha fatto sognare, e adesso noi ci stiamo abituando un po' troppo spesso a avere un'italiana in finale in uno slam, ma non è una cosa normale. No, non è una cosa assolutamente normale. E dove può arrivare Sara, Barbara? Allora, intanto bisogna dire che grazie a questo torneo è entrata nelle prime 10, anche se durante la premiazione ha detto di non sentirsi una giocatrice che appartiene a questo numero, invece possiamo dire assolutamente sì. Sara è una che non si pone limiti, da questa partita imparerà sicuramente molto. Bisogna ricordare che ha fatto già quarti di finale in Australia sul cemento, quindi una superficie che non è così amata da lei come la terra rossa, quindi è una giocatrice che cerca sempre di migliorarsi. Io direi che un gradino in più lo può fare, visto che nelle donne adesso la Sharapova è debordante, ma le altre giocano un po' a momenti. Poi, chi lo sa, bisogna solo sognare in qualche cos'altro di importante. Sì, il nostro tennis femminile sta mostrando di essere vivo, Barbara. È un po' in controtendenza questo rispetto a quello maschile, ormai da anni comunque questo, però ci sono dei bei segnali. Ma guarda, intanto i segnali ci sono stati, ci sono, abbiamo seguito Setti nella sua cavalcata nel torneo, ha giocato una partita fantastica con Djokovic, abbiamo avuto semifinali di doppio, quindi qualche segnale in più anche da parte dei nostri maschietti c'è stato. Purtroppo la concorrenza a livello maschile è incredibile, ci sono 4 giocatori che sono inavvicinabili e quindi non è facile, ma sono sicura che anche i nostri ragazzi stanno lavorando bene e piano piano avremo anche qualche soddisfazione da quel punto di vista. Barbara, una battuta su domani, Nadal Djokovic, grande finale perché c'è il numero uno al mondo e il numero uno sulla terra rossa a scontrarsi. Era la finale più logica, ma sarà sicuramente una grande finale. Chissà se sarà una finale come in Australia, che è durata tantissimo. Io direi che il Nadal che abbiamo visto qui è il miglior Nadal di tutto l'anno. Non ha perso un set, è stato debordante fino a questa finale. Djokovic ha faticato un po', ha faticato con Seppi, ha faticato con Tsonga, visto che ha dovuto anche affrontare match point, però in semifinale l'abbiamo visto bene. Io direi che favorito Nadal su questa superficie contro questo Djokovic che non è così perfetto come l'anno scorso, però chi lo sa, è una finale. Grazie a Barbara Rossi, la ritroveremo anche poi per i prossimi appuntamenti riguardo il tennis, commentatrice tecnica per Eurosport. Grazie Barbara. E chiudiamo con la Formula 1, perché prove libere del Gran Premio del Canada, le prove alle 19, prove libere con Alonso scatenato, 19esima pole per Alonso. Alonso, Vettel davanti, ha preceduto la Ferrari solo 6 millesimi, poi Hamilton e Webber a meno di 3 decimi, Massa sesto, con un grande equilibrio, primi 16 in un secondo, alle 19 però poi le prove ufficiali. Chiudiamo qui, con A Tempo di Sport ci ritroveremo domani dalle 5 alle 6, naturalmente grazie in redazione a Giorgio De Luca, in regia a Paolo Corleoni, una buona serata e naturalmente un buon Italia-Spagna domani. Montante, la bici italiana dal fascino inconfondibile, una vera e propria mania. Vi ha presentato A Tempo di Sport.